Intanto non sono stata sola, ma c'era stato anche l'intervento di Emily Clancy di Coalizione Civica, con cui eravamo perfettamente in sintonia sul giudizio, diciamo, rispetto a questa azione di Cresce e anche sulla richiesta che cerchiamo di fare alla Giunta e al Consiglio Comunale. Custodia sociale è una parola che hanno inventato, diciamo, loro, lo stesso laboratorio Cresce, a partire dalle pratiche che da anni fanno, ed è l'azione di, in un territorio, produrre una presenza che diventi una presenza, quale quella loro hanno sempre avuto, una presenza che crea aggregazione, crea un presidio anche rispetto a tutta una serie di zone di abbandono e di degrado, crea relazioni, crea proposte sia per gruppi sociali giovanili, ma anche a volte è successo anche per popolazione più anziana, oppure che si mischia, proposte culturali, proposte sociali, proposte insomma di relazione che ricostruiscono un po' il tessuto molte volte di un territorio. Io questa cosa l'ho già vista parecchie volte operata da gruppi e movimenti sociali, centri sociali, eccetera. È una pratica che si vede, e quindi il fatto che un luogo come quello, abbandonato da anni, possa diventare, con anche una precisa volontà politica che lo sostenga, un luogo appunto di presidio, di custodia sociale, prima ancora che si risolva il problema di una sede, di uno spazio che trovi delle soluzioni formalmente date, prima che si trovano le soluzioni formali, passerà del tempo, ma intanto questa pratica può essere fatta. È particolare anche il luogo scelto da Cresce, la sede di un'ex banca abbandonata da tempo, che spesso, secondo appunto gli attivisti, apre il tema di questi spazi e del consumo di territorio e della speculazione immobiliare. Intanto quello, cioè un grande segnale, un grande mettere e riportare in luce dei luoghi che hanno dietro tutto questo, a parte che quello credo che non sia mai neanche stato usato, stato costruito, poi è passato di banca in banca, ma credo che nella storia che siamo riusciti a ricostruire nessuno l'abbia mai utilizzato, se non per speculazioni e compravendite. E poi mi sembra estremamente significativo che degli spazi morti, appunto oggetto solo di speculazioni finanziarie che passano sulle teste di tutti, si rigenerino in questo modo e rigenerino un territorio, diventino, c'è proprio una conversione, diciamo, ecco. Quindi secondo me ha un valore anche politico estremamente importante un'operazione del genere. Però spesso la politica mette, come dire, il vincolo della legalità, perché un'occupazione è un atto illegale. Siamo sempre lì, torniamo al punto. Bisogna vedere che significato diamo alla parola legalità. Intanto, se vogliamo parlare di legalità, parliamo prima appunto della situazione di questi grandi proprietari, di questi grandi capitali bancari che hanno speculato appunto sulle spalle dei cittadini, quindi casomai ci sono delle grandi illegalità, dei gesti certo illegali ma legittimi secondo me, che fanno emergere dei nuovi bisogni, cercano delle risposte, che indicano, fanno vedere, dimostrano, puntano il dito nella direzione di come questi problemi che una città ha avuto, perché spazi vuoti di quelle dimensioni sono problemi, potrebbero essere rigenerati, come questi problemi potrebbero essere risolti. Per me è un'illegalità che diventa uno strumento di passaggio verso appunto la conversione di beni in direzione sociale, non più speculativo. Quindi il valore di legalità deve essere non un valore assoluto, la legalità è uno strumento, non è un fine. Quindi se l'illegalità serve a raggiungere un buon fine, è un passaggio che bisogna anche accettare di fare. Se l'illegalità fosse un valore assoluto, saremmo ancora alle leggi razziali, perché erano la legge, erano legali, e quindi andrebbe bene così, e nessuno potrebbe mai opporsi. Ecco, tu appunto nel tuo intervento hai invitato anche i tuoi colleghi ad aprire una riflessione. Hai colto una disponibilità in questo senso? Allora, io so che c'è già stato un grossissimo lavoro da parte sia di Daniele Ara, presidente del quartiere, ma perché aveva anche alle spalle un consenso, una consapevolezza e un consenso positivo da parte del sindaco e della giunta, a farsi mediatori con tante proprietà sia pubbliche che private che sono già state interpellate, mediatori e garanti perché si potesse ritrovare uno spazio per il laboratorio Cresce. Questi tentativi, quindi c'è stata una volontà politica positiva che ha lavorato con Cresce in questi mesi, questi tentativi non sono andati a buon fine, nessuno, perché appunto le proprietà, come già era successo altre volte, quando abbiamo parlato di sfratti, eccetera, di case popolari, le proprietà non si mettono a disposizione. Credo però che a maggior ragione, proprio per questa proprio a partire dalla difficoltà, e proprio perché invece vediamo le esperienze positive e rigenerative che nascono dal basso e che vanno protette, custodite e promosse, la scelta politica deve essere ancora più forte a dire: bene, allora noi l'occasione la assumiamo per occuparci sempre di più di aprire un dialogo con le grandi proprietà, le proprietà private, le proprietà pubbliche, perché vogliamo che Bologna sia una città in cui lo spazio diventa generativo, e non possiamo più permetterci, se voi guardate la mappatura che hanno fatto appunto i compagni di Coalizione Civica sul loro sito, ci sono, mi sembra, 287 grandi spazi vuoti a Bologna tra proprietà pubbliche e private, di cui una novantina, un centinaio solo di pubbliche, per dire. E quindi questo è il tema, il grande tema che la politica della città si deve assumere. Quindi io spero che noi riusciamo a fare insieme, anche con Coalizione Civica, un prossimo ordine del giorno che chieda un impegno preciso alla Giunta in questa direzione.